Perché non c'era il bus? Quando ci sono i T-Day, il filobus va con il kerosene. Il filobus inquina. Quando ci sono i T-Day, inquina a gasolio. Quando le linee del bus vengono deviate, il filobus funziona col gasolio e inquina l'atmosfera urbana. Il T-Day, il filobus, la linea è deviata, la linea deviata, e allora il filobus inquina l'atmosfera urbana. Se prendi la tua bicicletta, non inquinerai mai l'aria, anche se scorreggi.